Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata. Comincia ad essere proprio difficile digerire l'appuntamento dal benzinaio. Questa mattina Quotidiano Energia segnala un aggiustamento al rialzo per i prezzi raccomandati di benzina e diesel sulle reti dei carburanti. A muoversi è stata Total Erg, che è salita su entrambi i prodotti, benzina e diesel appunto, di 0,5 centesimi. Sul territorio comunque si stanno registrando assestamenti all'insù, frutto degli aumenti dei giorni scorsi per quasi tutte le compagnie. La media dei prezzi praticati dalla benzina in modalità servito va da 1,56 euro al litro degli impianti Tamoil a 1,57 euro dei punti vendita Eni e Kuwait. In ologo, cioè le pompe bianche e i distributori indipendenti, viaggiano su un prezzo di 1,48 euro, quindi insomma un bel risparmio. Per il diesel si passa da 1,45 euro al litro delle stazioni di servizio Tamoil a 1,46 euro rilevato negli impianti Kuwait. Per l'enologo siamo al di sotto di 1,40 euro. Nel mezzogiorno la benzina si conferma oltre quota 1,61 euro al litro nelle sue punte massime, mentre il diesel si sta avvicinando pericolosamente alla soglia di 1,49 euro. Sembra davvero diventato un bollettino di guerra che rilasciamo ogni giorno. Per chi viaggia molto per lavoro, il pieno è diventato davvero un salasso. Il problema è che se non si riesce a capire se questa tendenza si fermerà, anche perché appunto il petrolio è un po' tranquillo da un paio di giorni a questa parte, ma la tendenza al rialzo, fino a quando non si raffredda la situazione libica, è destinata appunto a mantenersi. Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra, hanno chiesto ripetutamente al governo un intervento. Sentiamo cosa ha detto stamattina il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, intervenendo alla trasmissione Mattino 5, annunciando anche la convocazione della commissione dinamiche prezzi. Allora, innanzitutto lei sa che il petrolio viene pagato in dollari e incide nella differenza fra qualche anno fa e oggi il diverso cambio fra euro-dollaro. Il prezzo della benzina ha sostanzialmente tre componenti: un costo della materia prima, un costo fiscale e quello che viene chiamato abitualmente il margine lordo. Il margine lordo è composto da tutti i costi che ci sono fra la materia prima e il consumatore, ovvero il trasporto, certo, il pagamento del gestore, la distribuzione, gli ammortamenti, i guadagni, diciamo, legittimo anche delle aziende che distribuiscono il carburante, parlo ovviamente dei distributori. Certo. Ecco, sul prezzo internazionale, che è il prezzo di riferimento, che è il cosiddetto Platts, è un prezzo che vale per tutti ed è uguale per tutti, cioè per tutti i paesi del mondo. Poi c'è da verificare, ed è una verifica che faremo nei prossimi giorni, se l'adeguamento italiano, come spesso si dice, è fatto velocissimamente in salita e non è mai fatto velocissimamente in discesa. La commissione dinamiche prezzi, che io ho appositamente costituito nelle settimane scorse, dove è presente ovviamente il Ministero, sono ovviamente presenti i petrolieri, i distributori, l'associazione dei consumatori, cioè tutti coloro che possono avere un interesse negativo o positivo rispetto al prezzo del petrolio che si viene a formare al consumatore, e in quella sede verificheremo che cosa è possibile fare. Poi c'è una specificità tutta italiana del sistema distributivo. Purtroppo noi siamo l'unico paese in Europa dove il self è largamente minoritario rispetto al servito, ovvero nei nostri distributori, che sono circa 23-24 mila, c'è circa un 20% ha il self. Ovviamente self vuol dire non avere personale, vuol dire, certo, quindi non avere un'aggiunta di prezzo di costo. Nel resto dei paesi europei, facciamo riferimento con i nostri con i paesi europei, c'è un 80-90% di self. Ecco dove si può eventualmente intervenire su quei 16-17 centesimi che formano il margine lordo, e su questo valuteremo in quella sede che le ho detto. L'esponente di governo non parla comunque di nessun intervento per sterilizzare le accise. Questo è un altro bel problema, insomma, che le associazioni dei consumatori sollevano. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno dei margini anche per intervenire su questo, ma insomma è un problema ricorrente sul quale si fa molta fatica ad intervenire. Qualche ricetta per appunto però tranquillizzare il prezzo della benzina, il ministro Romani l'ha data, e vedremo anche se in questo senso ci sarà un adeguamento. Certo che riorganizzare la rete dei distributori, anche questa è una ricetta fornita da tempo, sulla quale quale non si interviene, e quindi sono interventi comunque di lungo termine che certamente nel breve non risolvono i problemi agli automobilisti. Ma oltre al tema del carburante, che è il primo preoccupante e più visibile effetto della ripresa della corsa del prezzo del petrolio, la fiammata dell'inflazione al 2,4% già certificata in Italia e in Europa in febbraio è destinata a scatenare una serie di rincari che si trasferiranno sui portafogli delle famiglie italiane nel medio termine, lasciando da parte al momento il capitolo mutui, aumenteranno le bollette, le autostrade, i contratti d'affitto. Il comitato Casper dell'Associazione dei Consumatori ha quantificato aumenti in arrivo per almeno 1.200 euro a famiglia in un anno. Ha fatto un punto molto preciso di ciò che ci potrebbe aspettare nei prossimi mesi la nostra Rossella Cadeo sul Sole 24 Ore di lunedì scorso. Rossella, ciao, buongiorno. Buongiorno. E noi discuteremo con lei di questo stamattina, ci farà questo secondo bollettino di guerra della giornata. Però il tema è, adesso, senza voler fare allarmismo, senza voler esagerare, perché poi anche di questo atteggiamento i nostri ascoltatori si scocciano, giustamente, il tema è non trovarci impreparati rispetto a queste novità poco piacevoli che arriveranno nei prossimi mesi. Parleremo anche del carrello della spesa e di quanto si stanno modificando per esempio i prezzi di frutta e verdura ai banchi dei supermercati in questi giorni per effetto del rincaro dei trasporti, naturalmente a causa dell'aumento dei carburanti. Buongiorno a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, bentornata a Salvadanaio. Buongiorno, grazie. E poi naturalmente sentiremo più tardi anche la voce delle associazioni dei consumatori. Fra qualche minuto ci collegheremo con Roberto Tascini, segretario nazionale dell'ADOC, che è una delle associazioni dei consumatori aderenti al Comitato contro le speculazioni Casper. Allora, senza populismo, senza retorica, vi invito, se volete, ad intervenire questa mattina come sempre a Salvadanaio all'800 24 00 24, per così darci un po' la vostra sensazione rispetto a questa situazione che possiamo gestire ben poco, perché finché Gheddafi, insomma, fa un po' quello che vuole, c'è poco da fare, gli effetti ce li dobbiamo subire, però sicuramente possiamo quantomeno essere un po' più coscienti rispetto a quello che ci capita intorno. Potete anche scriverci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Rossella, poi magari le voci dei rincari dei prossimi mesi, come dire, le faremo ad una, perché sono tutte come dire, situazioni anche abbastanza interessanti da analizzare individualmente. E però come dire, partiamo anche magari da quel versante che, se l'inflazione corre, dovrebbe contestualmente aumentare. Non aumentano più gli stipendi, perché appunto la contingenza è stata congelata, cancellata dalla legge degli anni 90, però insomma qualche voce in aumento potrebbe esserci anche in termini positivi, no? Cominciamo un po' subito a dare qualche buona notizia agli ascoltatori, sennò penseranno davvero che non facciamo che parlare di bollettini di guerra in questi giorni. Sì, come hai detto tu, in effetti gli stipendi, la busta paga potrebbero in parte alleviare l'effetto inflazione, ma solamente in minima parte, in quanto l'adeguamento previsto appunto per le buste paga deve tener conto dei rinnovi contrattuali collettivi e aziendali, quindi per il momento non esiste più quel meccanismo di compensazione che era dato appunto dalla scala mobile, dalla contingenza fino al 1992, che permetteva alla retribuzione di adeguarsi al costo della vita in modo tale da garantire il potere d'acquisto di operai, impiegati, insomma dei dipendenti, dei lavoratori dipendenti. Però appunto in fase di scadenza del contratto possiamo sperare in questo minimo adeguamento. Poi abbiamo anche il TFR, la liquidazione che viene accantonata per il lavoratore dipendente e che gli verrà data però solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ecco, il TFR ogni fine anno, al 31 dicembre, prevede questo meccanismo in base al quale la somma accantonata negli anni precedenti viene rivalutata con un meccanismo di indicizzazione a base composta, dove entrano sia un tasso a misura fissa sia un tasso a misura variabile che appunto tiene conto del tasso di anno dell'inflazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Quindi questi sono gli effetti positivi. Poi abbiamo anche le pensioni. Anche per le pensioni c'è un adeguamento automatico che segue l'inflazione dell'anno, un adeguamento che è provvisorio e che poi viene definito nell'anno successivo. Quindi sono tutte anche queste ammortizzatori, insomma, della di questa situazione misure, che però magari compensano molto poco la raffica invece di aumenti in arrivo che si spalmano su altri ambiti. E molto in ritardo, perché il TFR lo si prenderà a fine rapporto lavoro, la busta paga deve aspettare l'adeguamento, la pensione è solo in via provvisoria. E infatti, e invece la benzina la paghiamo immediatamente, così come Lorenzo Bazzana di Coldiretti, ogni giorno arricchiamo le nostre tavole con frutta e verdura fresca e rischiamo da un momento all'altro di trovarci delle impennate di prezzo considerevoli. Intanto le associazioni dei consumatori non hanno ancora alzato il velo con la loro preoccupazione rispetto all'andamento dei prezzi di questi generi alimentari, che hanno un'alta deperibilità e quindi devono essere rinfrescati ogni giorno sul bancone dei supermercati. Però avete già qualche sensazione sul fatto che la corsa dei carburanti di questi giorni possa trasferirsi anche sui peperoni e le melanzane che andremo a comprare nei prossimi giorni? Ma è chiaro che noi in questo momento stiamo analizzando quella che è la situazione di andamento dei prezzi e riscontriamo una normale variabilità per il periodo, cioè siamo in un periodo comunque invernale, abbiamo delle temperature rigide un po' lungo tutto lo stivale, quindi soprattutto sugli ortaggi ci possono essere delle oscillazioni nella disponibilità di prodotto che sono anche determinate appunto da questo andamento climatico. Sappiamo però benissimo che quello che è il prezzo finale dei prodotti ortofrutticoli dipende in buona parte da quello che è il costo di trasporto, quindi dalla logistica. Circa un terzo di questo prezzo finale è influenzato dai costi di trasporto, dai costi della logistica, e quindi potrebbe esserci un effetto di questo tipo, quindi ci potrebbe essere un rincaro determinato comunque da quello che è l'aumento dei trasporti. Anche se non dobbiamo negare il fatto che ci possono essere delle strategie alternative da parte ad esempio di chi distribuisce il prodotto, magari scegliendo un approvvigionamento più vicino ai luoghi di distribuzione in modo tale da evitare appunto questi rincari. Certo, so che una quantificazione dei possibili rincari che potrebbero arrivare non è ancora possibile, forse dipende anche dalle zone, quindi da quanta strada fanno anche i prodotti per essere trasportati, quindi per andare a rifornire appunto i supermercati. Detto questo, bisognerà capire anche, come diceva Bazzana, come si comporterà la distribuzione e quanto sarà in grado anche di assorbire questi costi maggiori. Magari questi punti li affrontiamo nella seconda parte di Salvadanaio. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre osservazioni su questa situazione che so crea grande disturbo, grande disagio, anche perché lo dicevamo, insomma, i redditi non si adeguano in automatico alla benzina, purtroppo, e molte famiglie sono ancora in difficoltà perché, a prescindere dalla situazione contingente, in realtà lavoro non ce l'hanno, lo hanno perso negli ultimi mesi, per cui magari questa situazione va già ad aggravare il bilancio molto magro di molti nuclei familiari. Sentiremo poi alla ripresa anche un ascoltatore, Simone da Firenze, un benzinaio che ha da dire la sua appunto su questa situazione, tra pochissimo. Eccoci di nuovo ritrovati in diretta. Questa mattina sono proprio classicamente, come si dice, con la patata in bocca, ovviamente, piena di raffreddore, mezzo influenzata, faccio fatica a parlare, speriamo di dire delle cose a senso. Il tema che stiamo affrontando è la corsa del prezzo del petrolio, tema inflazionatissimo in questi giorni, l'aumento dell'inflazione che sta provocando, come sapete, il primo segnale visibile che vediamo è che stiamo già pagando tutti pesantemente il pieno di benzina, diventato davvero troppo oneroso, e praticamente la tendenza potrebbe anche non essere destinata a fermarsi nel breve termine. E poi a quali altri rincari andremo incontro nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché ci sono degli effetti di brevissimo termine, di medio termine e di termine un po' più lungo. Lunedì scorso sul Sole 24 Ore la collega Rossella Cadeo ha fatto così una schermata, una videata, un esame abbastanza attento di ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi, quindi che cosa ci potrebbe costare di più la bolletta, naturalmente. Addirittura, Rossella, anche l'abbonamento della televisione, l'abbonamento alla Rai, che già cresce ogni anno e non per colpa del prezzo del petrolio, ma addirittura questa voce hai esaminato. Sì, perché è una dei capitoli di spesa del bilancio bilancio familiare e tutti gli anni ci domandiamo aumenterà o non aumenterà, lo paghiamo o non lo paghiamo questo canone RAI. In realtà si sappia che proprio l'articolo 47 del testo unico sul televisore prevede un aggiornamento, quindi un aumento del canone da pagare fisso tutti gli anni legato al tasso di inflazione programmata. Quindi se quest'anno abbiamo pagato 110 euro e 50 centesimi e aveva già subito un aumento, l'anno prossimo siamo tranquilli che pagheremo ancora un pochino di più. Diciamo che almeno questo problema lo possiamo accantonare per qualche mese. Andiamo invece a quelli che non possiamo accantonare, cioè al carrello della spesa, che vorremmo arricchire sempre di più con frutta e verdura di qualità, però l'aumento naturalmente dei prezzi, l'aumento dei trasporti chiaramente sta comportando anche dei possibili aumenti sui prezzi dei generi alimentari, e presto lo scopriremo anche al supermercato. Questa è una situazione che stiamo esaminando con Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Nel frattempo ci ha raggiunto anche telefonicamente il segretario nazionale di ADOC, Roberto Tascini. Segretario, buongiorno. Buongiorno a voi. ADOC è nel comitato Casper, il comitato contro le speculazioni finanziarie, che ha quantificato quanto ammonterà la nuova stangata a cui le famiglie italiane andranno incontro a causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti, a causa appunto di questa fiammata inflattiva che naturalmente stiamo registrando. 2,4% dicevo in febbraio, già certificato dall'Istat e anche da Eurostat per quello che riguarda l'Europa. 1.205 euro su base annua, Tascini, una somma incredibile, ma neanche una tredicesima ci salverà da tutto questo. Purtroppo al momento no, diciamo, e augurandoci che la situazione, diciamo, non peggiori nei prossimi mesi. Questo dato scaturisce dal fatto che il nostro, purtroppo quando ci sono queste crisi di emergenza, diciamo, internazionale come quella libica e del Maghreb, si va a sommare a quelli che sono i problemi atavici del nostro paese, un paese squilibrato che dipende per l'approvvigionamento energetico dall'estero, un paese che fa viaggiare le sue merci ormai per la quasi totalità su gomma, e quindi inevitabilmente quando aumenta il prezzo della benzina non ci sono solo i costi in più diretti che sopporta, diciamo, il consumatore, il cittadino che si deve approvvigionare e deve fare il proprio pieno, ma a questi vanno sommati i prezzi appunto che sono destinati a crescere, a essere ritoccati, e la dimostrazione anche la ripresa appunto, come dicevate, dell'inflazione che si dovrebbe attestare sul 2,2% per il corrente anno. Sì, beh, c'è chi dice già che arriverà anche al 3%, lo stimava Confcommercio Rossella Cadeo qualche giorno fa. Entro l'estate si parla di un 3%. Infatti, tant'è vero che la Banca Centrale Europea già ha deciso di correre ai ripari in maniera abbastanza pesante. C'è questo preannunciato aumento dei tassi, ne abbiamo parlato anche lunedì a Salvadanaio, per aprile 0,25%, ma si stima almeno un 3 interventi da qui alla fine dell'anno, uno 0,75%, proprio per frenare i prezzi. E comunque ci va anche bene, perché volevo leggervi una notizia arrivata poco fa. La Banca Centrale del Vietnam ha aumentato i suoi tassi per la seconda volta in 3 settimane, qua si fanno interventi abbastanza rapidi nel giro di poco tempo, e il tasso di finanziamento è al 12%, quindi accontentiamoci che qua siamo ancora al di sotto, saremo ancora al di sotto del 2% per la fine dell'anno. Eppure anche questi interventi contenuti per noi significheranno dei salassi notevoli, soprattutto per chi ha il mutuo a tasso variabile. Dedicheremo un capitolo intero ai mutui nei prossimi giorni, come sempre facciamo. Per ora ci scoscriviamo l'ambito d'azione appunto ad altri settori. Volevo tornare per un attimo, no, andiamo all'ascoltatore che aspetta da un po', Simone da Firenze, buongiorno. Salve, buongiorno. Simone, buongiorno, ci dica. Senta, io faccio il benzinaio, quindi qualcosina so. Ne sa, certo. Certo, ora volevo rispondere al ministro Romani, che lui parlava di fare del service. Sì, riorganizzare la rete distributiva, certo. Sa che c'è questa proposta da un bel po' di tempo. Sì, ma non so se sapete quanto può guadagnare un gestore dal carburante. Beh, io lo so da quello che mi racconta il mio, che mi dice insomma che i vostri margini sono veramente stringati. Su una media di 4 centesimi al litro, quindi non credo che sia quello il problema. Il problema, io ho una fattura in mano, è che abbiamo un'accisa del 42,50%. Su quello si fa però ancora orecchie da mercante, Simone, come lei sa. Dove poi poi aggiungiamo un bel 20% di IVA. Mm. Quindi la tassa sulla tassa. È vero. Simone, guardi. Lo Stato dovrebbe mettersi un attimino la mano sul cuore e pensare che forse sono loro i primi ad alzare il prezzo del carburante. Vabbè, non proprio loro. Simone, grazie per la sua testimonianza. Conosciamo le ragioni anche dei benzinai. Effettivamente abbiamo dato loro voce tante volte anche dai nostri microfoni. Roberto Tascini, volevo tornare per un attimo da lei. Effettivamente voi avete sollevato ripetutamente la questione dell'intervento sulle accise, sulla rimodulazione, sul congelamento o quant'altro, ma lì proprio non c'è verso di intervenire. Perché? Certamente il motivo di fondo è che per assurdo, per questo meccanismo perverso, lo Stato guadagna sempre di più mano a mano che cresce il prezzo appunto del petrolio e della benzina, per cui qualcuno infatti ironicamente ha parlato di un'ottava compagnia petrolifera che agisce e d'altra parte quello che diceva il distributore, il benzinaio poco fa, purtroppo risponde a verità, cioè ormai oltre la metà del prezzo complessivo è dovuto soltanto a questioni di aspetti fiscali, a tutte le accise che si sono accumulate dalla guerra di Abissinia ad oggi, che ovviamente nessuno ha provveduto ad accantonare, a smantellare, all'IVA che poi viene applicata sul tutto, e certamente con i chiari di luna odierni non è semplice, non è facile, ci rendiamo conto, però è anche vero che se non agiamo con un intervento appunto di riduzione dell'accisa, se non proviamo applicare pure quel famoso provvedimento sull'accisa mobile che era stato elaborato nel 2008 dalla finanziaria del 2008 e che non è stato mai messo in funzione, che dovrebbe scattare all'epoca, si stabilì quando si supera la soglia dei 70 dollari a barile, e queste cose qui appunto sono state puntualmente accantonate, ci rendiamo conto per motivi di bilancio, però rischiano di alimentare una nuova fiammata inflazionistica, rischiano di deprimere sempre più un paese che delineava la stessa Banca d'Italia, è un paese che fa sempre più prestiti, che ha sempre meno soldi sul conto corrente, che consuma sempre di meno, quindi come li rilanciamo questi consumi se non mettiamo qualche soldo in più nelle tasche delle famiglie che tra l'altro oltre a spendere meno, ad indebitarsi un pochino di più, ad avere meno soldi sul conto corrente, stanno modificando anche la qualità del carrello della spesa, la stanno diminuendo forse anche in quantità, questo le grandi organizzazioni lo stanno denunciando da tempo, Rossella, lo dicevamo prima anche a microfoni spenti, anche questo denota un segnale di difficoltà non indifferente. Sì, è una delle ultime notizie, le famiglie fanno meno spesa potendo con questo sistema incidere sullo scontrino finale, oltre che seguire altre strategie, il chilometro zero piuttosto che lo sfuso, piuttosto che la programmazione degli approvvigionamenti, queste sono cose di cui abbiamo parlato spesso infatti anche nelle tue trasmissioni, però c'è proprio una contrazione anche di quello che si compra. Infatti. Allora chiedo ancora un minuto di pazienza a un ascoltatore di Perugia, Pietro, che tra l'altro è anche molto arrabbiato sulla questione del rincaro dei prezzi delle merci. Volevo ritornare a Lorenzo Bazzana. Intanto c'è un ascoltatore che prontamente ha segnalato, visto che prima io chiedevo al rappresentante della Coldiretti insomma quanto costeranno in più in media nelle prossime settimane i peperoni e le melanzane che andremo a comprare, Massimiliano subito si è sollevato dicendo si mangiano in estate, quindi adesso non dovrebbe comprarli. Vabbè, compriamo pomodori, adesso compriamo altre cose. Bazzana, però, detto questo, facevamo un po' come dire un punto su quella che poteva essere l'ondata di rincari che riguarderà la frutta e la verdura nelle prossime settimane, quanto peseranno tra le tasche delle famiglie. Bisognerà vedere, lei ci diceva, quanto anche la grande distribuzione interverrà per compensare, per assorbire questi maggiori aumenti, o quali altre soluzioni potrebbero esserci appunto per poter evitare che il salasso si trasferisca eccessivamente sulle tasche delle famiglie, che comunque il tavolo devono apparecchiarlo, non c'è niente da fare. Bazzana. due o tre considerazioni sì. molto veloci. La prima considerazione è che il ragionamento che è stato fatto sulle accise mi trovo assolutamente d'accordo. Qui lo Stato deve decidere se vuole incassare i soldi dall'aumento del prezzo del petrolio o se vuole stimolare le imprese e renderle competitive sul mercato. Finché si tengono delle accise di questo tipo, e sappiamo cosa succede ad esempio con i nostri produttori in serra, evidentemente le nostre imprese non possono essere competitive, è un cane che si morde la coda, incasso, ma evidentemente deprimo quello che può essere la capacità nostra di essere capacità di esportare, di produrre sui mercati internazionali. Per quello che riguarda il discorso delle tasche dei consumatori, noi crediamo che ci sia ampio margine perché la distribuzione assorba questo tipo di situazione. Da un'indagine che abbiamo fatto recentemente è risultato che lo stesso tipologia di prodotto nei diversi punti vendita può avere delle differenze di prezzo che vanno ad esempio sulla pasta dai 49 centesimi a 1,45 euro. Questa forte variabilità a seconda del punto vendita dimostra che c'è comunque spazio di manovra per poter recuperare, assorbire queste situazioni senza andare a deprimere ulteriormente i consumi. È chiaro che è un equilibrio molto delicato, aumentare i prezzi in questo momento al dettaglio significherebbe diminuire ancora i consumi dei cittadini. C'è poi anche tutta la partita aperta del chilometro zero, ma Bazzana ce la riserviamo per l'ultima parte di Salvadanaio, perché anche questa via per risparmiare su frutta e verdura torna ancora ad essere suggerita anche dai nostri ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde per le vostre osservazioni sul tema di questa mattina, tra poco. Allora, prima di andare avanti con la trasmissione devo leggervi un'informazione di servizio. Si tiene a Milano il 6, il 7 e l'8 aprile la nuova edizione del Salone del Risparmio, che è il più importante evento italiano dedicato al settore del risparmio gestito, organizzato e promosso dall'organizzazione di categoria che ha suggestioni. In vista di questo appuntamento, Salvadanaio ha istituito un servizio di segreteria telefonica che è già gettonatissimo, 800 28 12 12, dove potete lasciare le vostre domande, in particolare su ciò che vorreste chiedere al vostro consulente in tema di risparmio gestito. Quindi vi invito a contattare questa nostra segreteria che abbiamo allestito per queste giornate fino a questo appuntamento. Risponderemo a tutti, o almeno a gran parte, speriamo, dei vostri quesiti a partire da lunedì prossimo con l'ausilio degli esperti di Assogestioni. Adesso ritorniamo al tema dei rincari in vista a causa del petrolio che corre, dell'inflazione che si comincia ad impennare, è cominciata ad impennarsi in febbraio. Rossella Cadeo, allora, sono in arrivo ovviamente presumibilmente bollette più care, questo non abbiamo detto, ma naturalmente è la voce più importante che nel medio termine subisce gli effetti del prezzo del petrolio. L'autorità del gas e dell'energia farà la revisione sul prezzo base dell'energia il primo aprile. Secondo te avremo già una sorpresa? Sì, avremo già una sorpresa a fronte dei cali registrati ultimamente, almeno per quanto riguarda l'energia elettrica. Però visto che gli aggiornamenti dell'autorità per l'energia vengono fatti sulla base del prezzo delle quotazioni petrolifere e del gas, il gas, ricordiamo, era comunque già aumentato nell'ultima rilevazione, si presume che la tariffa base di riferimento possa crescere per qualche allora. E poi ricordiamo che, sempre per guardare a lungo termine, che dall'anno prossimo con la bioraria ci sarà una differenza più accentuata tra il costo del kilowattora di giorno e il costo del kilowattora di notte o nei festivi. Quindi bisogna anche abituarsi a un diverso utilizzo degli elettrodomestici. Anche i canoni d'affitto aumenteranno con l'inflazione che cresce. Sì, l'aumento per i canoni di locazione è effettuato annualmente alla scadenza del contratto, della scadenza annuale del contratto di locazione, ed è il riferimento è il 75% dell'indice di inflazione Istat riferito agli ultimi mesi rispetto alla scadenza del contratto. Quindi questo bisogna vedere quando scade il proprio contratto di affitto. Andiamo a Pietro da Perugia. Buongiorno Pietro. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Faccio il camionista da 22 anni, quindi ho una buona esperienza in questo. L'unica cosa che una delle tante cose che vorrei dire è che bisogna cominciare a sfatare dei miti del fatto che appena il petrolio va cresce e allora i prezzi di frutta e verdura aumentano perché il prezzo del trasporto aumenta. Questo noi abbiamo i prezzi fermi da quasi 16 anni. Guardi, le dico che anche un altro ascoltatore, Rocco, che salutiamo, ci sta dicendo la stessa cosa. E allora, insomma, allora bisogna capire come mai c'è questo meccanismo di trasferimento, perché io ho la quasi totale certezza, Pietro, che comunque fra qualche settimana frutta e verdura costeranno un po' di più. Lei non crede che anche la sua famiglia troverà degli aumenti al supermercato? Sì, lei dice, sì, però ma non è colpa nostra. No, non è colpa vostra, ma neanche colpa nostra, nel senso che noi come autotrasportatori che facciamo questo lavoro da non un giorno, da tanti anni, sì, i nostri prezzi sono fermi da 16 anni, quindi chi specula non siamo noi, anche perché se fosse veramente così sarebbe meglio per tutti. Lei considera una cosa, noi mediamente un camion consuma 4.000 litri di gasolio al mese. Lei pensi solo tutto l'aumento che dobbiamo noi, diciamo, pagare. Sopportare noi, adesso, certo. Sopportare adesso per noi è come uno stipendio di un operaio. Lo immagino, tutto questo, Pietro. Tutto questo, diciamo, aumento. Quindi chi specula sotto, diciamo, sotto qua, non siamo né noi che, diciamo, lavoriamo sul settore, ma sicuramente sono i grossisti che approfittano dal fatto che dice sì, hanno una scusa valida. E questo lo vorrei dire anche ai consumatori direttamente, perché non è vero, bisogna cominciare a sfatare questi miti, perché sono solo miti, perché noi purtroppo il gasolio lo paghiamo molto caro, no? E lei consideri chi c'ha un camion 4.000 litri al mese, lei pensi chi c'ha una grande flotta di 30, 40, 50 mezzi solo per questo scherzetto qua della Libia ha bruciato 10-15 mila euro al mese parliamo. Infatti, Pietro, tutta la nostra solidarietà, buon lavoro. Naturalmente questo è altrettanto quello, come dicevo, che ci dice anche un altro ascoltatore, Rocco, che ci spiega, le posso garantire che il committente non ci riconosce assolutamente gli aumenti che noi invece dobbiamo sopportare per l'aumento dei prezzi dei carburanti. Allora mi rimane un minuto e mezzo, vorrei andare a Lorenzo Bazzana per sentire cosa ne pensa rispetto a cosa dicono gli autotrasportatori che poi, appunto, le merci le portano, le trasferiscono sui banchi dei supermercati. Bazzana. Ma evidentemente c'è un effetto che noi abbiamo denunciato più di una volta, poi di moltiplicazione di questi prezzi, che fa sì che poi il consumatore invece si renda conto che ci sono fenomeni di questo tipo. Adesso poi sarà a chi di dovere verificare se è colpa dell'uno, colpa dell'altro, colpa di quell'altro ancora. Noi diciamo che alla fine per contrastare questi effetti veri o presunti o diciamo fantastici che siano, il discorso del chilometro zero può essere un'alternativa. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare come Coldiretti per dare un'opportunità migliore ai produttori e per dare un'opportunità ai consumatori è quello di cercare di fare in modo di attivare queste forme di commercializzazione di prossimità in modo tale da abbattere i prezzi e avere una soluzione a questi problemi. Certo, ma anche attraverso, Bazzana, accordi direttamente tra i supermercati e i farmer market, perché è chiaro che come consumatore. Se noi parlassimo soltanto di farmer market o di mercati di campagna amica, evidentemente vedremmo soltanto una goccia nel mare. È chiaro che questo tipo di situazione noi stiamo cercando di ricrearla anche con la grande distribuzione, certo, in modo tale che al di là delle logiche internazionali di qualche catena che arriva in Italia e si porta dietro i fornitori da altri paesi, ci si possa rendere conto che l'approvvigionamento in loco è un plus sia in termini di qualità del prodotto che in termini di impatto ambientale ed economico. E allora dobbiamo organizzare anche al più presto un altro confronto proprio con Federdistribuzione, quindi con la grande distribuzione organizzata, per capire come intende gestire questo problema che pian piano sarà sempre molto più evidente. Adesso ci dobbiamo fermare perché Salvadanaio è terminata e andiamo alle nostre parole della previdenza. INPS, per saperne di più. L'INPS oggi ci spiega chi è il referente regionale. Visto il notevole ricorso all'utilizzo dei buoni lavoro per la retribuzione del lavoro occasionale accessorio, a partire dal 15 febbraio opererà all'interno dell'INPS la figura del referente regionale, quale punto di riferimento sul territorio per favorire la puntuale e corretta gestione del servizio voucher e per promuovere l'impiego dei buoni in ambito regionale. Ci si potrà rivolgere al referente per il trattamento delle richieste di chiarimento o di intervento. In tal modo si individua l'interfaccia delle associazioni di categoria, degli intermediari, degli enti locali, eccetera, offrendo consulenza sull'impiego corretto dei buoni lavoro. Il referente informerà tra l'altro il datore sull'opportunità di non impiegare il prestatore che presenta compensi prossimi o addirittura superiori al limite economico previsto. Grazie a Rossella Cadeo, Lorenzo Bazzana di Coldiretti e Roberto Tascini di Adoc per essere stati con noi. Ritorneremo sicuramente a parlare ancora di questi argomenti nei prossimi mesi e speriamo che si siano mantenuti su questi livelli, insomma, che davvero non dobbiamo assistere ad una fiammata ancora più preoccupante dell'inflazione, perché lì per qualche famiglia la questione potrebbe cominciare ad essere davvero preoccupante. Noi ci lasciamo, ci risentiamo per Salvadanaio come sempre domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.